Andrea Bocelli. E la voce di Andrea in questa famosissima Ave Maria di Schubert è stata sostenuta dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, che questa sera è diretta da Marcello Rota. Eccola qui la formazione che stasera sostiene le arie, le romanze del nostro concerto, e di cui fanno parte anche docenti proprio di quel conservatorio Casella dell'Aquila, che è diventato inagibile con il terremoto. Conservatorio dove 750 alunni e 110 docenti si sono ritrovati dopo quel 6 aprile a non avere una sede dove lavorare, dove studiare. Sono andati a fare lezioni in altre sedi, nei pulmini, ma non hanno smesso di suonare, perché l'amore per la musica è un amore totale, un amore che non si può interrompere mai. E adesso Andrea ci ripropone un'altra preghiera, una preghiera bellissima, emozionante. In questa preghiera si incontrano due voci cariche di emozione, quella di Andrea Bocelli e del soprano Angela Gheorghiu. Eccola.